ascoltiamo la presentazione. Questa serata rientra nell'attività della Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusto, una biblioteca che da anni organizza due volte alla settimana degli incontri con autori e autrici, soprattutto a livello locale, per raccontare il territorio e far conoscere anche quelle che sono le attività, le persone, come si muovono, quello che viene proposto. Spesso organizziamo serate di carattere storico, ma ben venga, ecco, quando arrivano dei suggerimenti o delle proposte, come è stato il caso del nostro incontro con Elio Cirimbelli, per così raccontare quella che è l'attività di un'associazione radicata sul nostro territorio, attiva da 30 anni, la cui storia è raccolta in questo ultimo libro, Vicini a chi si allontana, un titolo intrigante, diciamo, no? Questo simoro che così in più di una persona ci ha chiesto: ma di cosa si tratta? Ecco, è qualcuno che se ne va, nel senso metaforico della morte, perché ci è stato chiesto anche questo, o è invece una separazione dovuta ad altri percorsi che si intraprendono, a delle così divisioni tra persone? Per noi è importante perché la biblioteca è un servizio pubblico che deve dare continuamente delle informazioni anche al cittadino. È un'occasione strepitosa quella di conoscere un'attività di un'associazione che si muove in questo senso nella nostra società, fa un servizio, aiuta le persone in termini di congiunzione anche nel conflitto, di unione o comunque di una risoluzione delle possibili difficoltà senza arrivare a delle azioni magari più eclatanti o distruttive, come vediamo spesso purtroppo ancora succedere. Ringrazio Elio Cirimbelli che ha chiesto appunto alla biblioteca di poter organizzare. Noi stiamo ormai chiudendo la nostra attività in estate, tra luglio e agosto portiamo avanti la nostra attività istituzionale e con settembre poi rincominciamo le nostre promozioni alla lettura. I prossimi ultimi appuntamenti sono giovedì prossimo, sempre presso il Centro Trevi, la presentazione di un romanzo di Gianluca Battistel, L'Inconfessabile, e poi la prossima settimana, lunedì 27 giugno, sarà la volta del libro di Ettore Frangipane, che è qui in sala con noi, Vestivamo alla meno peggio, sempre qui al Centro Trevi. Ringrazio la vostra presenza, ringrazio il Presidente Don Valder, ringrazio il nostro ospite che ci aprirà un nuovo percorso e ha portato anche copia del libro La vita di coppia messa alla prova, in italiano e in tedesco, che è a disposizione eventualmente, vero, del pubblico. Sì, in omaggio. Qui abbiamo allestito una vetrina con alcuni libri legati a queste tematiche, che avesse piacere può prenderle in prestito dalla biblioteca. Grazie a lei. Grazie a lei, dottoressa. Penso che il microfono non serva, no? Serve? Ma cerco di... No, non... Grazie. Allora facciamo una cosa che è molto più simpatica, e così non serve il microfono. Mi metto qua. Sa cosa che ci serve per il podcasting? Se no non registra l'audio. Noi lo mettiamo su internet dopo, okay, no? Per chi non è riuscito a venire, mi dispiace. No, no, vabbè. Non volevo creare questa barriera. No, buonasera a voi, grazie di essere qui presenti. Vicini a chi si allontana. Tra l'altro ho scoperto recentemente, parlando con una giornalista la scorsa settimana, che è uscito un libro di recente che si intitola Vicini e lontani, no? E poi non ha nulla a che fare, insomma, con la tematica di oggi. Permettetemi di ringraziare il Presidente Don Valder, tutti voi, ma anche il Presidente Don Valder, che così mi ha voluto partecipare nel libro con un suo pensiero, no? Perché è stato il mio presidente, no? Il nostro presidente, ma anche il mio presidente, quando nel 1986 lo andai a trovare e mi presentai questa associazione. Probabilmente a lui non avevo detto quello che dicevo altre volte, no? A volte dicevo: non siamo l'associazione degli alpini, non siamo nemmeno l'associazione degli extraterrestri, siamo un'associazione che si occupa di una realtà, di una triste realtà. E lì, ovvio, snocciolavo dati che allora non erano così eclatanti come potevano essere oggi, perché allora le separazioni erano circa 200-250 all'anno, oggi raggiungiamo il 700 e il 500 divorzi e altre situazioni di convivenza. Però questo era un po' il mio modo di presentarmi, ma poi non vi svelo cosa il presidente mi disse, perché altrimenti non ho comprato il libro, lo dovrete scoprire leggendo, se avete la compiacenza, lo scoprirete leggendo il libro. Mentre invece un altro personaggio che nel libro non c'è, ma che comunque viene citato da me, è l'assessore, il primo assessore che per il ruolo istituzionale che aveva, l'assessore alle politiche sociali di Otto Sauer, ci diede una mano. Anche da lui bussai timidamente alla sua porta, mi presentai dicendo: mi chiamo Elio Ciribelli, sono il presidente dell'associazione Separati Divorziati, in questi due anni abbiamo fatto questo, abbiamo lavorato tanto, adesso dovremo lavorare ancora, però avremo bisogno del vostro aiuto. Anche lì fui, diciamo, fortunato, perché nell'anticamera di Sauer c'era una persona, per correttezza non faccio il nome, che non mi fece terminare, non riuscì a terminare quello che volevo dire. Voglio dire, mi chiamo Cimbelli, no, abbiamo un'associazione di dire, lui mi fermò dicendo: non continui, perché suscita in me forti emozioni e forti dolori e non ho voglia di parlarne, no? E lui poi mi fece accomodare la sala. Vicini a chi si allontana, perché il nostro compito è quello, è sempre stato quello in prima battuta, di ascoltare. Noi siamo convinti che la prima forma di aiuto che un'associazione, un centro può dare è proprio quella di ascoltare. Questo è un grande privilegio che noi abbiamo, questo ci ha aiutato poi di venire a creare e a fare altre cose. Però se noi chiudiamo gli occhi un attimino e immaginiamo che, perché ci crede il Signore Dio, per altri non lo so, ma non ha importanza, se qualcuno ci ha creato con una bocca e due orecchie, probabilmente questo sta a significare che le orecchie forse sono più importanti della bocca. Molte volte parliamo troppo, ma ascoltiamo poco. Ecco, allora noi, senza mettersi in posizione di giudizio, senza mettersi in posizione di giudicante, vogliamo, attraverso la prima fase del colloquio, che è un colloquio di ascolto, proprio ascoltare, accogliere queste persone che, se vengono da noi, esprimono un disagio, ma soprattutto esprimono una sofferenza. Tanto è vero che l'assessore Sauer, a compimento di 10 anni della situazione, in un libricino, c'erano anche i saluti del presidente Zumbante, ma Sauer, come assessore, scrisse all'ASDI: va riconosciuto il merito di essere stato il primo servizio specializzato su tutto il territorio provinciale, ma anche nazionale, ad occuparsi della sofferenza di cui rimane vittima un nucleo familiare quando si disgrega. E questo è importante e fondamentale, perché a prescindere da chi, quando finisce un'unione, decida o così, o prenda una decisione, noi abbiamo veramente la certezza, ne abbiamo poche, io stesso ne ho pochissime, ho sempre molti dubbi, perché io quel giorno che avrò certezze non ho capito niente della vita. Però siamo certi, siamo sicuri che dietro ogni separazione c'è sempre una propria sofferenza, indipendentemente da chi decide, no? E noi di questo dobbiamo occuparci, seguire le coppie che arrivano da noi con questa, così, con questo, tra virgolette, concedetemi il passaggio, con questo obiettivo, perché la nostra missione deve essere quella di: ok, va bene, se voi ritenete che il vaso sia così rotto che non si può più continuare, o ritenete che, no, la vostra unione sia finita, sappiate che voi avete un ruolo al mondo che non vi toglierà mai, che è quello di essere mamma e papà per i vostri figli. allora abbiamo coniato, concedetemi questo termine, non mi piace, ma per il momento non è trovato, questo slogan, non è slogan, questo detto e modo di pensare è questo: genitori non si nasce, si diventa, ma soprattutto si dovrebbe rimanere. E noi dobbiamo aiutare queste persone a continuare e perseverare in questo ruolo, che è quello di essere mamma e papà per i propri figli. Ecco perché c'è questo vicini a chi si allontana, no? Essere comunque vicini a queste persone, accompagnarle. Non più tardi di un'ora fa, alle 5, io ho visto una coppia che è venuta da noi dicendo appunto: ma noi siamo qui perché la nostra unione è finita, intendiamo separarci. E la prima cosa che ancora una volta ho spiegato loro, e continuerò a spiegare, ma sia io che le mie collaboratrici, ecco quella di dire: non preoccupatevi, noi senza presunzione, senza sfera di cristallo, cerchiamo di tenervi per mano. Questa era una bimbetta, mi sembra, di 4-5 anni, perché in virtù del ruolo che voi avete, che è quello di essere mamma e papà per i vostri figli, i vostri figli hanno sempre e comunque bisogno di voi. Questo libro l'ho scritto perché a dire la verità è un po' un mio secondo lavoro. Il primo lavoro è stato scritto nel 2004 insieme a mia moglie Erika, dove lì avevamo affrontato la tematica e la sofferenza, perché anche lì si parla comunque di sofferenza, dei tanti cattolici divorziati e risposati che non potevano, adesso possiamo dire che non potevano accedere alla comunione. Il vicino è stato un vicino testimonianza che ha voluto parlare anche lì, anche della nostra sofferenza, facendoci carico anche delle sofferenze di tanto altre, che era quello di non poter accedere al mondo. Il titolo era Divorziati e risposati in cerca di Dio, edito da Leoniano, e aveva questo taglio, no? Prevalentemente parlando di Dio. Questo invece non ha un toglio, il taglio di questo libro vuole essere più che altro un messaggio, vuole essere un messaggio perché noi siamo stanchi di sentire a volte questi atteggiamenti pregiudizievoli da parte di... C'è ancora una vulgata, no? Dove si dice: ma ci si separa con troppa superficialità, no? La gente si separa, no? Perché magari io uso il mio spazio di lavamenti piuttosto che... Sappiamo che apparentemente, no? Ci si può, dico apparentemente, separare con superficialità perché si guarda la punta dell'iceberg, no? Che può essere la sciocchezza, ma noi operatori che seguiamo le coppie anche in fase di separazione sappiamo che non è poi così, no? Troverete nell'altro libricino pubblicato l'altro anno con la provincia, con l'assessorato per politiche sociali e l'agenzia per la famiglia, alcune cause che portano alla separazione, a tante separazioni. E al primo posto ci abbiamo messo proprio, al primo posto io ci metto nella mia testa, ne parlavo oggi a pranzo con un'amica, la malattia del secolo, che è l'individualismo, no? Questo individualismo sfrenato a tutti i livelli, no? E poi però nella comunicazione, nella relazione di coppia, la difficoltà che noi abbiamo ad esternare il disagio, no? Allora io, membro della coppia, fatico ad esternare un disagio, me lo tengo dentro, dall'altra fatico o non lo voglio vedere perché spaventa, e intanto le cose vanno avanti. È stato provato, noi l'abbiamo visto dopo tanti incontri, dopo tanti colloqui, che chi ha difficoltà ad esprimere un disagio poi piano piano elabora una strategia che è quella, perché non crede di avere altre vie di uscita, che è quella proprio del no, così non va, ci separiamo. Dall'altra parte sentirselo dire, insomma, è dura e pesante. A maggior ragione dobbiamo aiutare queste persone in questo cammino. Perché un libro così? Ma perché, come dicevo, il messaggio vuole essere quello: guardate che poi non è così che ci si separa in modo superficiale. Dall'altra, lì non l'ho scritto, ma lo penso e l'ho avuto lì, forse magari a volte ci si sposa in modo superficiale. Lo stesso Papa, mi ricordo l'altro giorno, se ne è uscito dicendo: ma piuttosto che un matrimonio fatto in fretta e furia, magari per un matrimonio riparatore, come lui ne ha visti tanti quando era a Buenos Aires, ma magari se ne vedono ancora perché magari rimane incinto o quant'altro, convivete, no? E poi quando siete sicuri magari, no? A volte è impensabile, no? Che un papa, no, ecco, infatti è stato qui nuovamente criticato, ma insomma, sarebbe fare grosso. Allora dico che bisogna, forse ci si sposa con superficialità. Poi è ovvio, viene spontaneo chiedersi ma perché nasce un'associazione così, no? Allora non è che io mi sono svegliato una mattina e sono accorto che la gente si separa, no? No, anch'io vivevo tranquillamente nel mio, tra virgolette, legittimo egoismo di coppia. Forse, come a volte succede, immaginavo e speravo che se stavo bene io necessariamente stava bene anche chi era con me, ma l'ho scoperto io, come lo sta scoprendo tanta gente, insomma, no? Che aveva incontrato, che non è poi così scontato che se stai bene tu in coppia necessariamente, no, stia bene anche chi do il benvenuto al presidente dell'associazione scrittori, Alberto Pasquale, ben arrivato Alberto, e non è così, no? E anch'io, come tanti, ho commesso quell'errore, no? Va tutto bene, due belle bimbe, la seconda casa, c'era anche un pezzo di barca, insomma, non ci mancava nulla. Non è andata così. A un certo punto può capitare, può succedere, proprio in virtù del fatto che magari non ho voluto leggere i disagi, dall'altra c'è stata difficoltà ad espletarli, e che mi sono sentito dire no, basta, è finita, no, è meglio che ci separiamo. Allora non c'era asdi, non c'era nessuno. Ecco che a questo punto, insomma, anche per me allora è arrivata la tegola. La mia prima, così, il mio primo impulso è stato quello, ma perché accadono queste cose, ma qui bisogna fare qualcosa, volevo dare una mano, non sapevo che cosa, ma fare qualche cosa. Ho telefonato all'amico di sempre, che non c'è più, Don Giancarlo Bertagnolli, dove noi amici lo chiamavamo, io Giancarlo lo conoscevo dagli anni, dal 62, quando aveva fondato la gioventù studentesca. Lo chiamai, ciao Don Zecchi, io insomma, ho bisogno di aiuto, posso fare qualcosa per voi? E lui mi frenò dicendomi no, prima cerca di star bene tu, dopodiché direttamente quando starai bene potrai dare una mano agli altri. Allora ho iniziato nell'81 ad occuparmi, ho rispolverato dal cassetto il mio diploma di infermiere personale e alcune conoscenze, e ho iniziato ad occuparmi di alcolismo. Insieme a Guerrieri, che avevano fondato il centro di alcolisti, e anche lì si vedevano famiglie, no, che si separavano in seguito a questa altrettanto importante tematica, soprattutto qui da noi, no? Poi un giorno mi capitò tra le mani un libro che si chiamava dal titolo L'arte di separarsi, scritto da Edoardo Giusti, uno psicologo con una specializzazione vestadiana. Lo andai a trovare a Roma e scoprì che a Roma era nata l'ASDI, questa associazione separati divorziati, ma che prevalentemente si occupava di un aspetto altrettanto importante, che era quello dello stare insieme, di socializzare, no? Di creare gruppi, gruppo, no? E lì però la cosa mi lasciò un pochino perplesso, pensando a come si ragiona qui in Alto Adige, come ragionano le istituzioni. Ma se io torno a Bolzano, dico che ci troviamo in gruppo, quattro sfigati, andiamo a mangiare la pizza, insomma, più di tanto mi sa che... E allora lì, con la mia esperienza acquisita col centro di gruppo alcolisti, iniziai insieme ad un'amica psicologa, alcolologi con me, la Serena Donna Pozza, e lì creammo appunto l'associazione Separati Divorziati. Ecco perché dico, siamo arrivati a questo, perché non ci si alza una mattina e ci si accorge, insomma, che ci si separa. Passettino indietro, all'inizio avevamo anche creato dei gruppi che avevamo chiamato gruppi di incontro, studio 3C, che voleva significare conoscere, conoscersi e comunicare. Però abbiamo visto che anche lì in questi gruppi venivano persone prevalentemente separate e divorziate, ma che ci avevano così scambiato per un'agenzia matrimoniale, che erano alla ricerca, tutto legittimo, alla ricerca del padre. Comunque nasce la situazione separata e divorziata, si sviluppa nel tempo e a forza di ascoltare situazioni, no, e problematiche, praticamente ci siamo inventati tutto, no? Perché non c'era assolutamente nulla. È inutile che adesso mi brodoli addosso a dire quello che abbiamo fatto, non ha senso. Due cose però mi preme dirti: siamo stati i promotori di una legge provinciale anticipo contributo e mantenimento figli minori a carico, poi siamo stati promotori, gli unici in Italia dove la provincia autonoma con una delibera di giunta ha riconosciuto l'istituto della mediazione familiare come un servizio sociale, no? Certe cose, insomma, abbiamo creato la prima microunità di genitori e di papà separati. Anche lì siamo stati letti e interpretati come: ma voi difendete i padri. No, noi non è che difendiamo i padri, non difendiamo nessuno. Noi, a forza di ascoltare, ci eravamo accorti che dal punto di vista abitativo la persona che rimaneva più penalizzata era il papà, che era colui che sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, doveva lasciare l'alloggio coniugale. Però non siamo partiti nemmeno dagli papà, ma siamo partiti dal bisogno essenziale dei figli, per i quali è un sacrosanto diritto, nel caso appunto separazione dei propri genitori, avere un luogo decoroso nel quale incontrare i propri genitori. Potrebbero essere anche le mamme, no? Ma prevalentemente sono i papà. Ecco, alcune cose che troverete appunto in questo libro, non posso svelarvi tanto, altrimenti ci saranno alcune testimonianze di figli di genitori separati, di tre ragazze e di un ragazzo. Ci saranno così le preziose testimonianze del presidente Dunvalder, l'ex presidente di sezione dottoressa Elisabeth Broido, del nostro vescovo, perché anche lì, anche in questo libro, approfittando della concomitanza del sinodo dei vescovi, no? che è stato fatto un presinodo in ottobre dell'altro anno e poi che si è chiuso l'anno scorso, di come si è del mio incontro col Papa, del mio incontro con alcuni cardinali, il cardinale Baldisseri, il cardinale Casper, no? Dove lì, ecco, la speranza, la nostra speranza, perché il libro esce prima della conclusione dei lavori del sinodo, ma insomma le mie fonti, insomma, mi avevano assicurato che la linea del Papa, insomma, era tracciata, e sappiamo tutti come è uscita. In fondo, in sintesi, si prende in considerazione quella che è la prassi fino a un certo punto della Chiesa cristiana ortodossa con rito bizantino, che dopo il cammino penitenziale ammette, no, le nuove coppie, le nuove famiglie, non alle seconde nozze come fa la Chiesa ortodossa, ma alla comunione, no? Ma insomma, pensando ai tempi della Chiesa, no, e pensando anche con il vecchio diritto canonico c'era addirittura la scomunica, no? Di passi ne sono stati fatti. Ecco, vorrei citare solo un testimonianza del ragazzo. Ecco, c'è un insieme, insomma, di tutto questo, credo si venga abbastanza bene, ma non volevo tutto sommato che 30 anni si festeggiassero solamente con un convegno, no? E non si lasciasse anzi un qualche cosa, insomma, scritto, insomma, no? Franco. Ecco, Franco, che qui scrive dopo tre voci femminili, no, termina il suo racconto dicendo: Franco concluse la sua testimonianza con queste parole: la vita è bella, è meravigliosa, e quello che è successo a me, a noi, è la vita. Farvi capire come in fondo si parla di vita. Si parla di vita perché mentre la morte fa parte della vita e la si mette in bilancio, la separazione, pur facendo parte della vita, non la si mette in bilancio, ma può capitare, no? Ecco, io penso di aver parlato troppo, no. Se avete voglia di fare qualche... troppo poco? No, perché altrimenti vi vedo... No. No, se mi sollecitate a fare... No, ecco, lo ripeto così, posso dire con orgoglio che la casa editrice mi aveva sottoposto delle copertine orrende con su famiglie con la riga in mezzo, no? Dove due genitori che si contendono i figli, invece mia figlia Lorena che è presente e si diventa in grafica, pur avendo una laurea in storia, per importanza, è stata lei che ha ideato, insomma, questa copertina che è piaciuta, e devo dire con soddisfazione che, parlando di chiesa, ieri, ma questo mi era stato anticipato, nel mensile di Avvenire, che è tutto dire, sapete che sono Avvenire nel giornale dei Vescovi, c'è una bellissima recensione dove loro consigliano appunto di leggere questo insomma mi ha così. L'abbiamo documentato, eh? Prego? L'abbiamo documentato. Allora, mi fa piacere. Ecco, quando io all'inizio dico che la nostra prima forma di aiuto è l'ascolto, troverete una fotografia all'interno dove lì su una delle pareti c'è scritto questo: l'accoglienza è uno dei modi più efficaci per rimettere le persone nel flusso dell'amore e quindi della vita. Questo, chi l'ha scritto, chi l'ha detto? Questa l'ha scritta, cioè l'ho rubata a padre Giordano Muraro, che era un salesiano, venuto da noi i propri primi anni, perché appunto si occupava di queste situazioni. Un ringraziamento va anche, ma penso di averlo citato all'interno, al vescovo emerito Holzer, che è stato il primo teologo prete che nel 91 ha partecipato al nostro convegno. E ricordo che quando lo chiamai, no, presentandomi i suoi cimbelli dell'Associazione Separata dei Divorziati, lui lo ammutò lì, no, e a un certo punto rispose: sì, ma cosa c'entro io con l'Associazione Separata dei Divorziati? Ma devo dire la verità, il suo nome me l'ha fatto il vescovo, no, e lo volevo invitare. E dopo di lui, insomma, poi siamo stati così, è nata una bella amicizia anche con altri, al punto tale che Heger, nonostante era abbastanza timoroso, non era così molto, molto coraggioso, un giorno mi prese da parte e mi disse: ma Elio, smettila, mi raccomando, non catechizzarmi i preti, no? Perché già allora dicevo: ma perché non si potrebbe seguire la prassi cristiana ortodossa, no? Ma forse, ma questo lo dico ancora oggi, anche con i cardinali con cui mi sono incontrato, forse dovremmo essere tutti un po' meno cattolici, più cristiani, no? Per veramente fare le cose con il cuore. Edgar addirittura con me e con Edgar partecipò anche alla... io lavorai in Puglia al primo sussidio pastorale per i divorziati sposati, e poi Edgar partecipò con me e Edgar, se vi ricordate, al fatto di Enzo Biagi, no? Un paio di volte, e si vociferava allora che insomma qualche problemino lo ebbe, no? Un po' per il sussidio, ma anche per aver partecipato a questo, dove in fondo Edgar terminava il nostro lavoro, che lui non faceva parte del gruppo, l'unico laico ero io, c'era dentro Hildebrand, Golser, Panfer, Pietro Bertagnon, Pietro Giacomelli, cioè un gruppo dove in fondo alla chiusura di questo sussidio Eger citava quel bellissimo passaggio numero 16 della Gaudium et Spes sulla coscienza. Diceva: la coscienza è il nucleo segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità. E questa Ratzinger, allora prefetto della congregazione, non era piaciuta, perché Ratzinger aveva un po' la fissa di queste coscienze relativiste, al punto tale che nella seconda stesura di questo sussidio, quando appunto fu richiesta un'ulteriore pubblicazione e venne riconsegnato, io mi accorsi che c'era qualche pagina in più. C'erano quattro paginette, ovviamente due in italiano e due in tedesco, inserite di forza dall'allora prefetto della congregazione della dottrina della fede, che praticamente, non dico che stroncava, no, ma era abbastanza critico su questo sussidio. Passi che sono stati fatti. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete voluto. Spazio per qualche domanda, se sì. C'è qualcuno una curiosità. Prego. Posso parlare? Non ricordo il numero della legge, ma è quella che riguarda il cosiddetto affido condiviso. Sì. So che ci sono delle problematiche in merito. Dal punto di vista di chi ha una grossa esperienza come lei, quali sono gli aspetti problematici di questa legge? Ma quando nel 2006 veniva pubblicata questa legge, io venni intervistato dal TG nazionale di Rai 3 e mi chiesero cosa ne pensassi. Io dissi che era una legge che ha avuto una gestazione lunghissima, perché se ne parlavano da anni, dove è stata stralciata, se non mi ricordo se alla Camera o al Senato, in un secondo passaggio alla mediazione familiare, e a mio modesto parere era, ma più o meno ancora oggi lo è, era una legge per un brutto, lo definì così testualmente, un brutto ritocco dell'affido congiunto che già esiste, e una legge per separazioni idilliache. E siccome io separazioni di lì che hanno viste gran poche, stata una legge insomma fatta un po' così. Si confonde quando anche oggi io spiegavo a questa coppia che è venuta da noi, no? Che cosa significa affido condiviso. Affido condiviso significa che i figli hanno il sacro santo diritto di mantenere un rapporto equilibrato in termini di educazione, di essere seguiti e quant'altro da parte di entrambi i genitori. I quali genitori poi esercitano la loro potestà genitoriale, esercitano il loro essere mamma e papà, naturalmente separatamente, no? Perché sono separati. Quando il bimbo è con papà fa quello che vuole, nel senso naturalmente buono del termine, quando è con la mamma altrettanto. Quando prima c'era l'affido esclusivo, ad un coniuge, e dove magari qualche mamma, perché prevalentemente no, l'affido era la mamma, riteneva in modo sbagliato, no? Che il figlio è affidato a me, faccio quello che voglio, non era così, perché comunque anche con l'affido esclusivo le decisioni importanti, no? Che dovevano riguardare il futuro dei figli dovevano comunque essere prese insieme, no? Oggi secondo me l'affido condiviso ha bisogno di una cosa. Io vi tra l'altro quando me ne uscì con questa, venne accusato dall'associazione di padri separati dicendo che non capivo niente, no? che non avevo letto attentamente la legge, no? Ecco, vabbè, anche recentemente sono stato attaccato per altre cose. Forse oggi l'errore che si fa, non qui da noi a Bolzano, ma magari da altre parti, è quella di non e far precedere la separazione da un percorso di mediazione familiare, intesa non come tentativo di riconciliazione, ma intesa far sì che pur con la loro sofferenza, con la loro emotività, no? I genitori si rendano consapevoli che hanno un ruolo che nessuno al mondo toglierà mai, e che soprattutto gli aiuti, e qui a volte nemmeno gli avvocati sempre ci aiutano ad evitare che ci aiutano ad interrompere quel meccanismo perverso per cui quando ci si separa deve essere uno felice e l'altro è perdente. Se ci si separa siamo tutti perdenti, ma se noi stiamo ancora lì, ecco che poi succedono i disastri, no? L'hai voluta tu. Noi cerchiamo, laddove possibile, di dire, questo lo diciamo sempre, dire che ogni relazione di questo mondo è a rischio, tra amici, tra fratello e sorella, tra genitori e figli, tra coniugi, tra conviventi. E se una relazione termina con una separazione, è fuori dubbio che questo è un fatto negativo, nessuno può dire che sia positivo, ma ognuno ha fatto la propria parte. Noi dobbiamo aiutarvi a ragionare in questo. Secondo me è brutto parlare degli altri, ma io sono stato attaccato recentemente perché adesso hanno istituito questa forma che io non ho ancora capito cosa voglia dire, di questo registro della bigenitorialità, no? Come se un atto amministrativo, no, aiutasse a comprendere certe dinamiche, no? Costringendo a... Noi non siamo d'accordo, sono altri passaggi che dobbiamo fare. Noi dobbiamo lavorare per una cultura della separazione, che non vuol dire separiamoci e tutto va bene, ma proprio aiutarli, come dicevo prima, a capire che ok, ci si può separare come mai come mamma e papà. È ben vero che io sono contrarissimo a questa nuova riforma dell'usa e getta, no? Basta, se non siamo figli minori, no? Se non siamo figli, basta andare in due ragazzi che sono sposati, vanno in comune, con 16 euro si separano, no? Io non voglio fare un discorso moralistico o matico, ma che messaggio lanciamo ai nostri figli con questa facilità con cui già sbagliamo dei genitori a spiegare la strada in altre cose, ma che messaggio lanciamo con questo? Poi, divorzio breve, dopo 6 mesi da una separazione consensuale, no, si può divorziare. Ok, mi sta bene, però io dico, io in tantissimi anni, non più tardi di oggi, e non dico chi dei due, ho visto l'ennesima coppia dove io non ho mai visto è sbagliato, ma in 30 anni forse io posso contare su due mani se io non ho mai visto che due siano venuti insieme e tutti e due insieme avessero detto noi ci vogliamo separare. Io non sono mai stato contestato da qui a Caricati, quando dico, se due persone fossero così capaci di sedersi al tavolino e dire ci separiamo, forse non si separerebbe più nessuno, perché sarebbero state capaci nella loro vita di relazione di coppia di affrontare le cose come andavano affrontate, no? Allora, divorzio, perché dico il contrario al divorzio breve? Perché comunque la separazione è paragonabile ad un lutto, c'è poco da fare, e come tale e come ogni lutto va elaborato. Allora io trovo assurdo che dopo 6 mesi, no, si possa così con un contratto editato con altrettanti 16 euro dare comune, sempre appunto non devono esserci figli o devono essere figli maggiorenni e autonomi, così, e andare. Qui sono quelle forme ipocrite, no, che abbiamo nel nostro Parlamento, perché carità, perché abbiamo il Vaticano in casa, perché lo dice uno, insomma, che si definisce cattolico, allora potevano avere il coraggio di dire come si fa in altri paesi, divorzio subito. Che senso ha? Forse perché, carità, non so se ci sono solo, non me ne vogliono gli avvocati presenti, ma non so, forse sono sollevate le lobby degli avvocati, perché tra l'altro, mentre per la separazione non è necessaria l'assistenza legale, col divorzio eventualmente è necessaria ecco, 6 mesi dopo la separazione. Mentre una volta, e forse l'avvocato Pasquali naturalmente ha vanto una ricchissima esperienza, una volta il diritto di famiglia, no, veniva ripreso dopo alcuni anni, no, basandosi sulle varie casistiche, esperienza, Oggi si sveglia qualcuno, no? Correggi, ha aperto sul mare, si inventa qualcosa e ci butta lì, no? Ma mettiamoci questo, perché così facciamo contenti una certa parte di... cioè io non lo so, vado un po' per fantasia. Però l'affido di per sé è condiviso, cioè è positivo, però bisogna forse ancora una volta sforzarsi e aiutare di più a capire che cosa realmente intendiamo. Perché a volte succede che molti papà, a torto ragione a me non interessa, a volte alcuni papà vengono fraintesi perché ritengono che se un figlio sta precariamente con entrambi i genitori, ma così almeno evito di versare il contributo mantenimento, e partono da lì. Io avviso sempre questi papà: non lasciate stare la parte economica, anche perché è triste da dire, ma purtroppo vediamo, lo dico con tristezza, superata la parte economica, chissà perché si supera tutto, no? Però ecco, bisogna lavorare, secondo me, non attraverso gli atti amministrativi, non... allora ci vuole un buon senso, e naturalmente dove non c'è buon senso poi interviene la legge, ma al primo posto dobbiamo far prevalere il buon senso. Io quando mi confronto con altre regioni d'Italia mi rendo conto che qui siamo in una situazione tra virgolette abbastanza privilegiata, nel senso che non c'è la disoccupazione, no? Che c'è in altre, anche se da noi piano piano insomma c'è il fenomeno della cassa integrazione, di quei papà che prima potevano versare il contributo per i figli, magari un buon contributo, poi non lo possono più versare perché sono in cassa integrazione o addirittura hanno meno. Ma differenza, io sono stato per un breve periodo, ho fatto parte dell'Osservatorio Nazionale quando c'era la Bindi come ministro, e abbiamo portato alcuni esempi, e loro dicevano: ma voi siete fortunati, avete le risorse, perché non ci sono altre associazioni come la nostra in giro per l'Italia? Non perché noi siamo i più bravi, naturalmente, perché non hanno le risorse che abbiamo noi, non voglio dire, però è ancora, secondo me, politicamente sottovalutato il fenomeno della separazione. Si pensa sempre che sia un fenomeno tutto sommato privato, no? E non è che vada ad intaccare tutto l'aspetto della casa, della sanità, no, tutto insieme. Chiedo scusa se mi sono dilungato. Prego. Posso chiederti una cosa? Sicuramente separazioni e divorzi sono un fenomeno sociale sempre in aumento, purtroppo, sia in Italia che in Europa. Mi puoi spiegare perché in Alto Adige, Südtirol, abbiamo il maggior numero di separazioni e divorzi rispetto alla percentuale della popolazione di tutta Italia? Che ragioni ci sono perché abbiamo un numero maggiore? Ma noi, basta andare a venerdì a intervenire. Sì, allora, no, va detto una cosa: le separazioni sono leggermente in calo, ma in calo fisiologico perché ci si sposa di meno. Noi come osservatorio, che assistiamo anche invece i conviventi che si separano, notiamo un forte aumento di convivenze che si separano, e tu mi insegni che è importante che vengano regolamentate. Io ad una risposta, ad una domanda così anni fa, che mi fecero i due sociologi Barbagli e a Saraceno, no? Ma secondo te perché, la buttai lì dicendo: ma se noi guardiamo un po' tutto il nord Italia, il nord Europa, no? È più probabile separarsi laddove c'è benessere. Se noi vediamo che dal centro in giù le separazioni sono assolutamente inferiori, allora quando io prima ho detto che in Alto Adige abbiamo la fortuna che c'è c'è poca disoccupazione, e devo dire per fortuna c'è anche poca disoccupazione femminile, no? Al di là di part-time o al di là di certe situazioni, va anche detto che, e lì non so darvi una risposta, che in statistica, in casistica, a chiedere le separazioni nell'85% dei casi è la donna. Allora io mi chiedo, ma non lo dico maliziosamente, mi chiedo, ma forse probabilmente anche perché qui la donna ha giustamente, no, acquisito una sua emancipazione psicologica, femminile, occupazionale, no? Perché in giù, quando molte donne non lavorano, no? non potrebbero mai permettersi, no? una separazione, non lo dico in termini maliziosi, ma per tentare di rispondere alla tua domanda, credo, perché qualche ragionamento l'abbiamo fatto anche con la prassi dell'asta, io credo che insomma laddove c'è benessere c'è più, anche se per carità c'è il mutuo da pagare, c'è la casa, però mi sentirei di rispondere così, naturalmente senza certezze, perché se guardiamo Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia, no? Parliamo comunque di realtà dove insomma poi tanto male non ci sta, no? Se poi invece andiamo da Roma in giù, a Pedicelo, insomma, anche se lì le espansioni sono ci sono. Un fenomeno che stiamo riscontrando è questa multiculturalità familiare, dove io nel giro degli ultimi 3 mesi ho visto diverse coppie di albanesi, piuttosto che moldavi, piuttosto che qualche anno fa invece c'erano molti magrebini. Ma adesso c'è più lì con maggiore difficoltà, un po' per la mentalità dell'uomo un po' violento, possessivo e quant'altro, un po' perché comunque questi sono già poveri di loro, sono tutti nuclei familiari che hanno l'alloggio IPES piuttosto che hanno un sacco di figli, però anche lì nonostante queste povertà si separano, perché poi per carità scattano degli aiuti provinciali, insomma, e quant'altro. Prego. Vorrei fare una considerazione. Lei ha parlato giustamente delle coppie che scoppiano e dei bambini che restano. Sì. Però la situazione, penso io, può essere ulteriormente complicata dal fatto che le coppie che si separano poi si accompagnano diversamente, perché lui trova un'altra lei, lei trova magari un altro lui, la situazione si ingarbuglia ancora di più, nascono bambini dall'uno e dall'altra parte, e allora il discorso diventa molto più difficile ad essere risolto che non come ci sarebbe potuto sembrare attraverso le sue parole, che già lo definiscono complicato. No, caro Francipani, noi già il terzo anno ufficioso, ma il primo anno ufficiale, che abbiamo messo in piedi un progetto che è sostenuto dall'Agenzia per la Famiglia, dove ci occupiamo appunto del patch of family, no? Cioè di quei nuclei familiari dove o entrambi o uno dei due hanno avuto una precedente unione, anche matrimonio, con dei figli, perché le dinamiche sono assai complesse. Noi ci occupiamo di questo in modo preventivo, no? Proprio per evitare ulteriori separazioni. Classico caso, no? Due divorziati, due separati, dove lui incontra lei che ha un paio di figli, no? Ci va a convivere, no? Poi magari fine settimana lui altrettanto, no? ha queste famiglie allargate. Noi abbiamo visto che i problemi insorgono quasi sempre se non è stata ben elaborata, no? la prima crisi, insomma la prima separazione, e dove ci sono forti interferenze. Io ricordo l'altro discorso. Famiglie d'origine, ex partner, io ricordo le suocere, io ricordo sì, perché a volte noi diamo una mano anche ai nonni, no? Spiegando loro e cercando di aiutarli a capire che comprendiamo la sofferenza perché hanno visto i loro figli separarsi, però attenti a non prendere e a non immaginare che questi bimbetti siano degli orfani, perché comunque una mamma e un papà ce l'hanno. Se c'è una giusta elaborazione del tutto e non ci sono grosse interferenze e i nuovi partner sanno rimanere al loro posto, cioè sanno che pur vivendo, e che è difficile, ci rendiamo conto, pur vivendo magari il quotidiano con figli che non sono loro, no, è difficile starsene zitti e non interferire, vedo che le cose sono tutto sommato, perché i figli alla fine hanno bisogno di chiarezza e di amore. I figli devono sapere che io mi inorridisco quando queste nuove vogliono chiamare, non so, papà 1, papà 2, mamma, cioè queste robe, no, oppure no, sanno che se naturalmente la cosa viene fatta con gradualità e non si impongono immediatamente ai figli, no, la nuova fidanzata del papà o il nuovo fidanzato della mamma, e soprattutto se si immagina che una relazione è stabile, perché non c'è cosa peggiore per un figlio vedere che la mamma ha 10 fidanzati e ne cambia uno ogni 3 mesi, o il papà ha 10 fidanzate. Ecco, però è sicuramente una tematica, una situazione che va monitorata. Noi nel nostro piccolo, insomma, stiamo tentando proprio di lavorare, no, con questi nuovi nuclei, perché ci rendiamo conto. Io ricordo anni fa di un papà che venne da noi dicendo che il suo rapporto, nuovo rapporto, era in crisi, no? Perché la nuova compagna aveva scoperto che lui di nascosto, perché non voleva, andava a trovare la figlia, perché la nuova compagna si era fatta tutta una fantasia: no, tu non vai a trovare la tua figlia, ma vai a trovare ancora il nome. Però credetemi, alla base non è stata ben, non c'è stata una separazione, sì, sulla carta, ma non c'è stata una separazione psicologica, non c'è stato un lutto superato dal punto di vista emotivo, e allora ci si attacca. Noi consigliamo vivamente di non imporre immediatamente, no, il nuovo quadretto familiare, no, dove ha magari ancora con separazione in corso, o dopo un mese il papà vuole andare con la nuova fidanzata perché c'ha il camper, così la butto lì, no? Con tutta no, con i figli. Io ricordo situazioni pesanti dove io ricordo una famiglia che si separa, dove lei con rassegnazione accetta la separazione, perché lui si era trovato un'altra donna, e ancora durante nella fase tra il ricorso e l'udienza lei ritorna da me dicendomi: ma insomma, noi abbiamo 3 bimbi, il più piccolo o il medio, se non mi ricordo, è tornato a casa piangendo dicendo: no, io non voglio andare con papà e con, no, la nuova. Allora lì gli inviti, cerchi di farli ragionare, guardate, soprattutto voi papà che non vivete il quotidiano con i figli, che non sarà mica la fine del mondo se quel fine settimana dite alla vostra amorosa che se ne stia a casa, no, e voi state con i vostri, perché i figli hanno bisogno di questo, hanno bisogno di te come papà o di te mamma, ma non di te. E col tempo, no, le cose qualche volta ci si riesce, qualche volta no. Ciò non toglie che proprio in virtù, no, per evitare nuove separazioni, ci stiamo occupando di questo, insomma, è un progetto che è sostenuto, accettato e sostenuto, insomma, dall'Agenzia per la Famiglia. Grazie. Grazie. Ma questo delle famiglie patchwork è un fenomeno di questi ultimi 10-15 anni, o avete dei dati anche precedenti? No, è un fenomeno. Io ricordo che quando avevamo cominciato a parlarne 6-7 anni fa, in Alto Adige si conta siano circa censiti circa 4.000-4.500, no? Però è un fenomeno in crescita, perché diventa quasi no. Allora, va detto che c'è voglia di famiglia, è brutto dire o sentire il male, perché, no, perché queste persone vogliono, no, costruirsi. Ecco, mentre pensando alla casistica che ho detto prima, la decisione di separarsi è presa prevalentemente dalla donna, mentre quella decisione di sposarsi, di divorziare, è presa prevalentemente dall'uomo, perché comunque, insomma, vorrebbe, no, per la donna diventa un po' difficile a volte con figli, insomma, magari anche avere opportunità, no? A meno che non ce l'avesse prima, insomma, è un altro discorso, no? Ecco. Sì, noi abbiamo cominciato, i miei maestri, io ho fatto la scuola di triennio di mediazione familiare presso il centro psicoterapia di Rimini, collegato con l'Università di Pisa, perché il direttore era il professor Bogliano di Pisa, e lì loro se ne occupano da più tempo, però è un fenomeno che come adesso abbiamo in mente, stiamo elaborando un progetto, anche lì sperando ci siano le risorse, che vorremmo occuparci delle famiglie interculturali. Gli effetti dobbiamo aspettare ancora 10 anni, no? C'è un passaggio di generazioni per capire. Sì, non bisogna avere fretta. È partito un lavoro presso l'università, in questo gruppo scientifico ci faccio parte anch'io, voluto appunto dal rettore, dove lì ci si sta occupando della relazione figli-genitori, non necessariamente figli di, no? Anche lì sta venendo fuori, insomma, cose. Altro atteggiamento che dovremmo evitare, o che chi è nell'ambito dovrebbe, è quello che a volte hanno gli insegnanti. Noi li avevamo fatto due percorsi con gli insegnanti, che a volte hanno un atteggiamento, nel bene e nel male, pregiudizievole con i figli di genitori separati, no? O li vedono come dei poveretti, o li vedono come bambini comunque da proteggere. Io mi ricordo nel primo corso fatto, la prima domanda che avevamo fatto a questo gruppo di insegnanti, una ventina, è stata questa: voi, se oggi è il vostro primo giorno di classe, no? Inizio anno scolastico, venite a conoscenza che nella vostra classe ci sono 4 figli o 5 figli di genitori separati, qual è il vostro primo pensiero? La risposta di 3 di loro, ma che erano separati o divorziati, ma per noi non c'è problema. La risposta di tutti gli altri: poveretti. Anche lì bisogna stare attenti, come lo dicevo prima, con i nonni, ma anche io a volte, quando vedo che due persone che si separano comunque sono genitori collaborativi, non sono aconfittuali, io dico: ma non dovete necessariamente primo giorno di scuola parlare con gli insegnanti, io mi raccomando, mi può seguire mio figlio o mia figlia, perché noi no, le cose verranno fuori, sempre che naturalmente non ci siano situazioni gravi o conflittuali, perché si è visto, no, che a volte questi ragazzini o ragazzine o bimbi o vengono etichettati. Guardate, tutti probabilmente l'avete sperimentato: se un adolescente che è inserito in una famiglia tra virgolette unita, no, ha dei problemi, si dice è un adolescente, ok? Sta crescendo. Se lo stesso adolescente è figlio di genitori separati e ha i problemi del suo coetaneo, i medesimi, non dico nel 100% delle volte, ma quasi, si sente dire: eh beh, i suoi sono separati. Io anni fa facevo un esempio un po' brutale, no? Parlando di pregiudizi, immaginatevi una scala condominiale, no? Dove all'ultimo piano abita la famiglia Ferrari o Rossi, no? I due si separano, sicuramente non si dirà più la abitano i Ferrari, lei abita la divorziata o la separata, perché è così, c'è ancora, forse non più, però insomma, non lo so, mi auguro, insomma. Che ora abbiamo fatto? Io penso che vi ringrazio, avete sopportato 30 gradi di sono qui dentro, e l'ho sopportato piacevolmente insieme a voi, e adesso se avete voglia vi invito, insomma, ad acquistare. Grazie. Grazie.